e tutti, seconda trasmissione di Uru qui su Radio Wombat, trasmissione che vuole essere una panoramica sulla musica africana e in particolare oggi, dopo essere stati la volta scorsa in Nigeria e in particolare a Lagos, questa volta come seconda tappa ci trasferiamo in Mali, dove sono due i punti focali, le città focali, diciamo, che verranno trattate e da cui provengono la stragrande maggioranza, la maggior parte dei musicisti, degli autori ospitati in questa puntata di Uru. Nafunché, un piccolo villaggio alle pendici meridionali del deserto del Sahara, dove appunto sono partiti, in particolare è partito uno dei più grandi musicisti maliani, se non di tutta l'Africa, cioè le Farka Touré, e soprattutto l'altro polo musicale, la città, la capitale, Bamako, una città che fin dal 1990 ha visto crescere svariati stili musicali, anche perché è considerata e lo è tuttora un crocevia, diciamo, delle varie etnie che compongono la popolazione maliana e che conseguentemente è un crocevia anche delle culture e soprattutto della musica che queste etnie rappresentano e propongono. Cominciamo appunto con uno dei, come abbiamo detto precedentemente, con uno dei più grandi musicisti africani, Ali Farka Touré, il sindaco di Nafunché, che da Bamako già all'inizio del 1990 ha iniziato a produrre e comporre musica, canzoni. E questa volta, cioè come primo pezzo, iniziamo con Bonde di Ali Farka Touré, tratto dall'LP Talking Timbuktu, la cui particolarità è che forse non per la prima volta, ma una delle poche volte in cui musicisti bianchi, diciamo così, tra virgolette, fanno da spalla a musicisti africani, in questo caso Ray Cooder. E quindi Ali Farka Touré in Bonde dall'LP Talking Timbuktu. Thank you. Allora, cominciamo a dare le specifiche della radio, il sito che è wombat.noblogs.org, dove potete trovare il link per ascoltarci in streaming. Su Twitter e su Facebook cercate Radio Wombat Firenze. La mail per mettervi in contatto con noi è postawombat@insiberia.net. Prossimo pezzo, sempre alle Falcature, questa volta insieme a Tumani di Abate, l'album è In the Heart of the Moon, appunto Monsieur Maire de Niafunke, il sindaco di Niafunke. Una canzone proprio dedicata, diciamo, comunque vuole rappresentare quello che è, che è stato alle Falcature per questa città del Mali, diciamo, in cui ha operato successivamente, dopo essere stato a Bamako, portando avanti progetti culturali e appunto in particolar modo quelli in campo musicale. Quindi Monsieur Maire de Niafunke, Alle Falcature Tumani di Abatello, LP è In the Heart of the Moon. Thank you. Sia le Farkaturè che Tumani di Abatè che Morikantè che ascoltiamo dopo sono discendenti di famiglie di griot. I griot, importantissimi per questa parte di Africa, erano poeti e cantori, sia uomini che donne. Sono depositari della storia orale di questa parte dell'Africa. Andavano di villaggio in villaggio a raccontare ogni volta la storia, portando anche le notizie, delle famiglie che si erano divise e tutto quello che succedeva, che era successo nel frattempo. Con l'urbanizzazione anche loro hanno cambiato un po' i ruoli, nelle città li chiamano per i matrimoni e così, quindi ancora oggi il loro ruolo è fondamentale. Il prossimo pezzo è di Gavin da Piré, si intitola Sisa ed è tratto dal lavoro omonimo Gavin da Piré. Gavin da Piré, pur essendo di un'etnia, la stessa etnia diciamo, degli altri, della stragrande maggioranza degli altri cantanti maliani, è nato in Burkina Faso. Il Burkina Faso è confinante col Mali. In particolare la città Bobo Dioulasso, dove è nato e dove ha iniziato a formarsi musicalmente, Gavin da Piré, è veramente molto vicina al confine tra Mali e Burkina Faso. Anche qui, come nel pezzo precedente, diciamo, l'aspetto principale, oltre che la magnifica voce, è la cora, cioè uno strumento musicale a corde tipico delle regioni del Senegal, Mali e Burkina Faso, appunto in cui anche Gavin da Piré, come precedentemente Toumani Diabaté, è uno degli elementi dei soggetti più virtuosi nel suonare questo strumento particolare. Lo facciamo ascoltare appunto Gavin da Piré, il titolo del pezzo della composizione è Sisa, l'LP lavoro è. Il lavoro, cioè il nome è lo stesso, omonimo, si intitola semplicemente Gavin da Piré. Sisa yel kome ya ya Bibir zana ni bere zanya dume zabana potolo Wololololo Sisa Sisa yel kome ya ya E bibir zanya ni bere zanya dume zabana potolo Wololololo Unami iti yela shome iria Jimi ya malama wa junmo wa dugumuo Unami iti yela doa iria Jimi ma malama ya dugumo wa dugumuo Jimi ya seni na anom iya Jimi ya malama ya dugumo wa dugumuo Jidi ya yela la la la la yela la yela la la la Didi ya le la la la la la ye la la ye la la la la la Sisa, sisa yel kume ya ya Bibir zana ni bere zanya dume zabana kotu olo olo olo olo Sisa, sisa yel kume ya ya Bibir zanya ni bere zanya tu meza bana potolo wololo Unami itize asome yiria Bidi ya holuma wa mudumu wa jizumu wa dumu Funa mi itizi ala mayiria. Nima voluma wa jidmo wa voluma wa jidmo. Ojoba we la la la la la la la la la la la. Ojoba we la la la la la la la la la la la la. Siza, siza yel kume ya ya. Ibiza nani mereza ni atu meza pana kutulu. Siza, siza yel kume ya ya. Ibiza nani mereza ni atu meza pana kutulu. Unami itizi atama yiria, kimi mawanyu muwadumu muwadidini atudumu. Unami itizi asome yiria, kimi mawanyu muwadumu yambumu muwadudumu. Mutunja yera la la la la yera la yera la la la. Chujuma yera la la la la yera la yera la la la la. Allora, per gli appuntamenti della settimana ce n'è uno domani particolarmente importante. L'Assemblea per la Piana contro le nocività, insieme a tutte le altre associazioni che sostengono la lotta contro l'inceneritore e l'aeroporto, chiede la presenza domani alle ore 11 al Polo Scientifico per difendere il territorio e la salute, perché il presidio è un bene comune ed è il simbolo, il luogo di incontro e di lotta di tutti gli abitanti della Piana e di Firenze, che difendono la salute e il territorio e che vogliono costruire l'unica grande opera utile, il Parco della Piana. Domani, ore 11, il presidio sono anch'io, venite e firmate l'appello. Il prossimo pezzo, ritorniamo in Mali, ritorniamo nella città principale maliana, cioè Bamako, e ritorniamo appunto a Toumani Diabaté, in questo caso non con Ali Farka Touré, ma con il gruppo, diciamo l'orchestra che l'ha sostenuto e con cui ha portato avanti innumerevoli tour, sia in Africa sia anche nelle principali città europee, e cioè la Symmetrical Orchestra, dall'LP Boulevard de l'Independence, che tra l'altro per inciso è il viale principale di Bamako, così ribattezzato dopo l'indipendenza del Mali, appunto Toumani Diabaté e Symmetrical Orchestra, il pezzo si intitola Mamadou Diaby. Thank you. wala teba na bukuroto Halibinyo sotu mambati Lato tinyanguni ata na fama Inungurala Zahibani mamado mamadu jabi Kofulabe mamado mbiwelela Aseida mamado sedo mamadu jabi Inungurala Oromusu sabala kema Mkutarla jabi mbiwelela Mamadu jabi alabiki Barikambe bunye jom barikalaliye Tumani da bunye de barikalaliye Jebi kasama parafina Mamadu adi mousa kwaidi wadala Jebi alami wadala wa Sempre qui su Radio Wombat, ripetiamo il sito wombatnoblogs.noblogs.org, da dove potete appunto ascoltare in streaming e scaricare anche i podcast delle varie trasmissioni, gli account social, Twitter e Facebook, twitter.com/radiowombatfi, l'account Facebook, facebook.com chiaramente, /radio-wombat-firenze e le mail a cui inviare suggerimenti, notizie, complimenti, quello che volete, insomma, postawombat@insiberia.net. E se qualcuno l'ha già fatto, ma credo di sì, comunque è un po' utile ricordare il perché Wombat. Il Wombat è uno dei tanti animali strani, autoctoni dell'Australia, come il koala, come l'echidna, come l'ornitorinco, che appunto nella sua stranezza ha delle particolarità veramente, veramente notevoli. La prima è che fa le feci quadrate. Se voi guardate la foto delle feci dei wombat, vedete che sono veramente quadrate, una cosa incredibile. Ma ancora più importante è che ha il marsupio nella parte posteriore, perché può contemporaneamente scavare e utilizzare il marsupio per i piccoli, sostanzialmente un po' come le donne africane, insomma, che portano i bambini dietro sulla schiena e nello stesso momento continuano a lavorare. Ma ancora più importante è che il wombat difende estremamente il proprio spazio dagli attacchi esterni, calci, graffi, e soprattutto avendo una cartilagine di 5 cm nella parte posteriore, molto spesso difende la propria tana mettendo appunto la parte posteriore all'ingresso della tana e l'inutilità degli altri predatori che vogliono invadere la tana si rivela, perché pur mordendo non riescono a incidere più di tanto rispetto sull'aspetto, sulla coriacità del wombat. Insomma, manca solo che il wombat morda facendo delle incisioni, delle impronte circolari con uno zippo dritto e siamo a posto. E proprio per questo il wombat è uno dei nostri animali preferiti e proprio per questo questa radio si chiama Radio Wombat. Torniamo alla trasmissione, torniamo alla musica, torniamo a Uru. Il prossimo pezzo è Jarabi. La particolarità di questo pezzo è che è frutto di un progetto in cui anche in questo caso c'è la mano di Ray Cooder. Il progetto si intitola Afrocubisme, cioè un ensemble musicale composto sia da musicisti cubani che da musicisti africani, e in questo caso proprio da musicisti maliani. Il titolo dell'ensemble, diciamo, e dello stesso LP è Afrocubismo, è proprio una contrazione delle parole Africa, Afro e Cuba, e poi che diventa un'altra parola ancora, Afrocubismo, tant'è che la copertina veramente bella di questo LP è fatta, diciamo, con segni tipo l'arte cubista, però con i colori dell'Africa. Appunto Jarabi, tratto dall'EP Afrocubismo. Thank you. bane ni yara bi lo alu ba yara bi lo yara bi ke de quran ni banami no do toro ma fira wala Allora, vi volevamo consigliare un film sul Mali. Il film si intitola Timbuktu, il regista è Abderrahmane Sissako. E fa vedere in modo quasi da documentario l'arrivo degli jihadisti, ed è una storia vera purtroppo, perché loro hanno invaso il Mali del Nord nel 2012, che arrivano appunto a Timbuktu e come opprimono e sottomettono l'intera popolazione, vietando anche la musica, che per i maliani è una parte importantissima della vita, tant'è che nella realtà tantissimi musicisti sono scappati o in Mauritania o nel Mali del Sud. Quindi il film si chiama Timbuktu di Abderrahmane Sissako, guardatelo che ne vale la pena. Il prossimo pezzo è di Mori Kanté, guineiano, è nato da una delle più note famiglie di musicisti griot, giusto per riprendere quello che veniva detto precedentemente. Mori è appunto il più giovane di 38 fratelli, dove per fratelli chiaramente si intende una famiglia allargata, ed è stato educato secondo le tradizioni della tribù dei Mandinka. Tant'è che fin da piccolo ha iniziato a suonare il balafon, che è lo strumento emblema della famiglia Kanté, ma è sotto certi aspetti anche lo strumento emblema dopo la cora di tutta quell'area musicale, chiamiamola così, composta da Guinea, Mali, Alto Volta, Burkina Faso, scusate, e Senegal. Successivamente è stato mandato a Bamako, appunto anche lui, la capitale del Mali, per essere iniziato alla tradizione del griot. E qui a Bamako conosce tutti gli altri più importanti musicisti della scena maliana dell'inizio anni 90, appunto Ali Farka Touré, ma anche Salif Keita, Omou Sangaré, via dicendo, e entra a far parte della Super Rail Band, che è appunto la banda della stazione, diciamo, delle ferrovie maliane. Entra a far parte di questo gruppo in qualità di chitarrista e chiaramente di balafonista, cioè di suonatore di balafon, e successivamente nel 73 ne diventa il frontman, il cantante principale, quando dal gruppo, dalla Super Rail Band, esce Salif Keita. Appunto rimane nel gruppo fino al 78 e comincia successivamente, oltre a suonare il balafon, a imparare a suonare la cora. Questo pezzo, Banchiero, si intitola, ed è presente una raccolta da Putumayo Records, che è una delle etichette più importanti, diciamo, nel proporre la musica africana. Il pezzo si intitola Banchiero, appunto Mori Kanté con Banchiero. Kalambozonga onga, onde kolule no. soninga ikutikala ukuzunga pamba ondekoba voiture na yo moninga ikutikala ukuzunga pamba. Come la volta precedente abbiamo parlato, abbiamo dato diciamo, una notizia rispetto alla Nigeria, appunto ci ripromettiamo di dare in tutte le trasmissioni una notizia meritevole di essere conosciuta, anche perché le notizie riguardanti l'Africa non sono particolarmente note diciamo, in Italia. E oggi appunto ve ne vogliamo dare un'altra, anche se non riguarda direttamente i paesi in cui abbiamo fatto, stiamo facendo tappa musicalmente, ma bensì riguarda l'Etiopia. Ma una notizia che oltre a riguardare l'Etiopia ci interessa, ci riguarda molto da vicino come italiani, diciamo. La notizia è che il 1° dicembre scorso, cioè appena ieri sostanzialmente, è stata presentata e proiettata per la prima volta in Italia un docufilm sull'eccidio di Debre Libanosh, un massacro compiuto il 21 maggio 1937 da soldati dell'esercito fascista italiano come rappresaglia all'attentato al viceré Rodolfo Graziani organizzato dai partigiani etiopi nel febbraio antecedente appunto il massacro. Ricordiamo che l'esercito italiano invase l'Etiopia e fu addirittura portato davanti al Tribunale dei Popoli, diciamo così, per l'utilizzo di gas nervini e per diciamo, una tattica indiscriminata, diciamo, e prevedeva l'uccisione indiscriminata degli abitanti etiopi. E appunto questa pellicola che vuole scoprire un velo sul massacro di Debre Libanosh, che è un monastero vicino ad Addis Abeba, a circa 100 km da Addis Abeba, è stato girato appunto tra Addis Abeba e Debre Libanosh stesso, e ricostruisce i fatti storici grazie al contributo di Ian Campbell, che è il maggiore studioso della strage, ai monaci che abitano tuttora a Debre Libanosh, e un testimone ultra novantenne di quei tragici avvenimenti, Ato Zevede Geberu. 19 per contestualizzare, diciamo, quello che è l'argomento del documentario, diciamo solo il 19 febbraio 1937, dopo pochi mesi dopo la conquista italiana dell'Etiopia, una conquista che tra l'altro non è mai stata del tutto una conquista, perché comunque specialmente nelle aree più lontane dalla capitale comunque sempre rimaste delle forme partigiane di guerriglia a contrastare appunto l'esercito italiano. Un gruppo di partigiani etiopi organizza un attentato al massacratore dell'Etiopia, Rodolfo Graziani, e vengono scagliate contro di lui durante una cerimonia ufficiale 3 bombe che comunque non lo uccidono. Da qui parte tutta una serie di avvenimenti, di vergognosi avvenimenti, tra cui l'uccisione indiscriminata di migliaia di etiopi, di abitanti di Addis Abeba, anche appunto il massacro degli abitanti del monastero di Debre Libanos, un massacro che fu affidato al generale Pietro Maletti, padre di Gianadelio Maletti, l'ufficiale italiano implicato nelle maggiori stragi d'Italia degli anni 60 e 70, in particolare nella strage di Piazza Fontana. E il 21 maggio a Debre Libanos vennero uccisi dai soldati italiani 297 monaci e 23 laici. Anche questo è il dato ufficiale. Si pensa però che il numero, dato ufficiale dato all'esercito italiano, si pensa però che il numero delle vittime sia maggiore, che si aggiri intorno alle 1.400-2.000 persone. Su questa strage, tra l'altro, così come su tutta quelle sono stati le nefandezze, diciamo, dell'esercito italiano in Etiopia, in Italia appunto è calato il silenzio. Pochi storici se ne sono occupati e nei nostri libri di testo, quello nella storia che studiamo nelle scuole, difficilmente viene studiata la storia coloniale, comunque quando viene studiata è vista soltanto dalla parte dell'esercito oppressore, dalla parte dell'esercito invasore. Quindi spesso viene ignorato tutto ciò che è accaduto durante la guerra in Etiopia e che tra l'altro come centro sociale stiamo portando avanti tuttora una battaglia, diciamo, per il cambiamento del nome via Reginaldo Giuliani, il quale appunto era un prete, un padre, che era il cappellano militare della campagna d'Etiopia, da parte della campagna italiana in Etiopia, e che quindi complice con tutti questi massacri. Tra l'altro è stato proiettato da parte del centro sociale Stemmers un film, If Only I Were That Warrior, che narra appunto in questo caso non del particolare aspetto del massacro di Debre Libanos, ma diciamo di tutte, prendendo spunto da Graziani, del monumento che è stato vergognosamente innalzato in suo onore in un piccolo paesino del Lazio, ricostruisce appunto il docufilm If Only I Were That Warrior, quella che è stata la parabola dell'esercito italiano in Etiopia. Il film è presente sul web, lo potete scaricare, e quindi questa è una notizia importante, insomma. E il prossimo pezzo, ritorniamo a Salif Keita, rimaniamo in Mali, il pezzo è Mossoulou. Barikada mobalu ye, barikada jamana molu ye, ka barikada musola karu ye, barikada Hakili mayara malo musula kasekele, oh musulu sekele. Yo gadona he. Hakili mayara malo musula katolole, oh musulu toyole. Oh gadona he. Eniki waso waditi yele. Sabu yuma, asabu kani. Yeneka ke wadi tibadi, olola mosolefe. Inna le inna, inna le inna, inna kusa goduna, ina godune kandi waso famale afisa buyuma asabu kayi ene kake famabadi olola mosole fe inale ina ina kusa godune ina nyoma bo Bara obela, ala oro yaka. Solo furuke boyala, malike bole senege orodo. Ipani daga sigile. Malike bole kuliyiro, surufana sigile. Uraja kekele sigido, nasongo bongodo. Logo nini ke oba jano kafero bobo woro Katiri no muro to focho Ah mama sira denna dinara Katiri no muro to focho Ah mama sira denna dinara Sira mori koro sibili pe mon pale ila diala mon ale kito dinia ki boy body sunaro kilara maya koro si kilara maya ki idiana kori e mo bayala o gado nalu baba sira mori koro sibili pe mon pale ila diala mon ale kito dinia ki boy body sunaro Ilara maya korosi, ilara maya ke idiana kori emo bayala, oh gado nalu. Anadiko mama de gado na anadiko, yani kake bodi tibali sabu ye mosole di. Ah tunyalaro, tunyamosole kome sabu ye. Yanika ke fama badi, bora mosolelo. Ah, tunya laro, tunya mosole, kobe sabuye. Anariko, baba de godona anariko. Ah, mama sira, dena dinara. Sima ule, kiyoro dene, baba de anariko. Ah, mama sira, dena dinara. Sima ule, kiyoro dene, Nariko, ah mama sira denna dinara mosolu mosolu moso e dopo Salif Keita ripetiamo i mezzi per ascoltarci e comunicare con noi quindi il sito dove potete ascoltarci in streaming wombat.noblogs.org Twitter e Facebook cercate Radio Wombat Firenze e la mail per contattarci e per di parlare con noi è postawombat@insiberia.net. Il prossimo pezzo è Amadou, sono Amadou et Mariam, una coppia musicisti sempre maliana, è un duo che è conosciuto, che si è formato all'Istituto per i Giovani Ciechi del Mali, infatti ambedue sono non vedenti, dove sia Amadou sia Mariam si sono conosciuti e hanno condiviso la passione per la musica. Uno stile musicale il loro un po' diverso da quello dei precedenti, degli autori precedenti, è basato su contaminazioni tra musiche tradizionali maliane e anche chitarre rock, violini, trombe cubane e via dicendo. Il pezzo si intitola Mali de Nous, Amadou e Mariam. Thank you. Allora, salutandovi, dandovi la buonanotte a tutte e tutti, vi svegliamo come abbiamo fatto la scorsa puntata, un po' della prossima, e ci trasferiremo nelle Kasbah dell'Africa del Nord. La prossima puntata, infatti, sarà sul Rai. Chiaramente nelle Kasbah, in particolare nelle Kasbah di Algeri e di Orano. E appunto, prossima puntata è Rai. Buonanotte a tutti e a tutti, anche da me. Vi lasciamo con la sigla di chiusura, che poi anche la sigla di apertura, Waka Africa, di Manu Dibango.